La residenza. Che cos'è la residenza? La residenza è il posto dove una persona vive abitualmente. Per stabilire in maniera ufficiale la tua residenza, scrivi un'email all'URP, che vuol dire Ufficio Relazioni con il Pubblico, Servizio Anagrafe. L'indirizzo email dell'URP del quartiere è indicato qui sotto. All'URP ti iscrivi nella lista anagrafica del comune.